pratica per ricoperti le parti che ti hanno sequestrato, hai capito? Oh, ho capito. Per carità, ai tecnici addirittura non gliene posso neanche toccare, chi ha il coso di tecnico, no? Non è buono educare il radio, perché io ce la posso avere per ripararle. Comunque, c'è il fede di sequestro, la verità, se tu vai nel sito FER, lo vedi subito, fede di sequestro, c'è l'atto del coso del giudice, c'è tutto scritto, non fa altro che presentarlo alle poste, se stavo sequestrato, questa roba qui, vai, non fa altro che andare alle poste, ti presenti questo foglio e ti ritorno tutto. Basta, e poi te lo tiri tu, passeranno quei 2 o 3 anni, quello che sono, a un certo punto, dopodiché la roba è tua, cosa è quello? Ognuno è libero di fare ciò che vuole, la roba sua, dei soldi suoi, altro non ti posso dire, cosa volete con l'imbecille cazzo che c'è vicino a te? Mi sarebbe bombo, detto, se me l'avessi detto, avrei fatto il fondo di sequestro io, ho detto, nel conto del 4500, cioè nel stato un netto e l'arco del lineare. Me l'avessi detto, mi avessi dato il mandato a me e l'avrei recuperato, gli ho detto, in 5 minuti. No, ma non me ne frega niente, mi ha risposto così, non me ne frega niente, gli ho detto un attimo. Mi sta bene così, mi ha detto. Allora, e te avanti, cosa vuoi dire, cagliato? Tutto lì. Però buttamelo via io con l'apparecchio, a gratis in pratica. Se quello c'è anche lineare, perché c'è la lineare grossa. Quindi, una cosa, sequestrata e poi la disquistri col foglio, non la doveva fare tranquillamente, bastava solamente che lui si scriveva, come mandato, eccetera, eccetera, me l'avrebbe regalata a me, hai capito? Ho capito. Io lo so già, Ghisu, che c'è l'imbecille, ho due frate e sono ammazzato in capo di cazzo, lasciamo perdere. Poi ti pone con Ghisu Lignarone a compagni in Chibi a rompere il cazzo dalla gente. Carità, qua. Prima era 27, adesso non c'è più. Adesso è già la 7, questa è. Quindi, a un certo punto, non me ne fate più niente. Però, e poi guarda, se me ne avessi detto, avrei detto l'unica cosa, ho detto, quando l'ho visto, avrei fatto, detto, andiamo assieme, lì all'esco posto, mi fai un foglio, che tu mi intesti che la roba la stai regalando a me, me la porto via io, e mi avevo detto, l'avete avuta io, mi avevo dato magari qualcosa a te, gli ho detto, a un certo punto, dice no, non me l'hai fatto niente, ho detto, allora fa come cazzo vuoi tu, gli ho detto a un certo punto. Avanzati. Se la funziona che è un fiamme da palle con questo gozzo, gliel'avrei fatto vedere io a lui. Vabbè, sto uscendo però un po' male mio, Anto, sei strappando. Strappando? Adesso com'è? Ancora. Aspetta, dopo molto, ma meglio adesso? Sei strappando ancora. Come sto strappando? Non sei chiaro, la verità, non sei chiaro. Io mi dice, tu di water. C'è a zero c'è cosa. Non so, sei strano di radio, eh. Guarda, allora, un po' meglio va. Guarda, per adesso. Oh, te la provo, ma com'è? Sto fatto l'amplificazione, a me diminuisce appena. Aspetta. Va bene adesso. Ho diminuito il microfono. Sì, ho diminuito il microfono, l'aria è migliorata, però c'hai questo strano di... Hai capito? Ma non è che senti il ventilatore, no? Sento il ventilatore, ma non ti dà quel fastidio lì. È peccato che strappi, hai capito? Stai strappando il radio. È strano. Perché non brava. Pure qua è basso il microfono. Adesso va meglio, ho visto? Adesso va leggermente meglio. Ma bene adesso. Bene, leggermente meglio va là. altro non ti posso dire. Magari siamo troppo vicini a fa... Ma ce l'hai il coso, l'attenuatore di 20 dB, non ci sa mai che... No, tranquillo, se si vede mai 20, l'attenuatore può mettere. Fai sono. I botti sono tutti giù. Vado a vedere. Ho fatto i botti. Ho entro parlati o da. Adesso va meglio, visto? Sicuramente, perché c'è tutti i botti chiusi e da una radio allucinante, capito? Adesso va bene. Ho fatto appena bene ai cosi. Ho già capito che cosa è. Magari ti fa andare in saturazione la radio tua, perché è troppo forte in radio. No, è strano, capito? È un bel strano di radio, facciamo come se fosse sputtando in pratica. Lo so. Adesso va meglio. Allora, è tranquilla. Perché praticamente quando tu abbassi tutti i guanti fa così. Infatti, la tagli avanti. Ricapo un attimo, sto leggendo la posta. La posta al computer, sto leggendo, maniaco. Queste cose di nascosto. Adesso c'è il giro del coso a me. Torna a casa. È rientrato il giro, ho cazzo della ragazza che vogliono soldi. Raga! Sto facendo su Facebook, WhatsApp, addirittura che cosa, su Instagram. Allucinante, cazzo. E adesso ci sono queste di Tesla, cazzo, tutti i giorni, Tesla. Ma cosa cazzo, state a rompere le balle, a rompere i coglioni, ho detto, domeni, ho detto. Tutti Tesla, tutti i giorni, 4 o 5 ce ne sono, cazzo. Ok, dai. Ora vi devo lasciare, ci sentiamo, ok? D'accordo, ok. Ciao Antu, ciao. Ciao Antu, ci sentiamo. Investi 250 euro su Tesla. E guadagni 8.500 euro la settimana. E se non arrivo ti ricordino a capo. Adesso scrivo stasera. Investi. In pratica, 250 euro. I poppi funebri che regolano 500 in un mese. Aspetta stasera che lo metto, cazzo, a vedere. Togliui, si sarà risa di ne capparla. Ma quellino Condo che fine ha fatto? Ah, boh, non lo so. Ma Colino, ci sei? Mica c'è Cremini qua, mi. Rispondi. Magari sta ridendo sotto i baffi. No, quello non è Macolino Condo. Quello non è Macolino Condo. Invece sì. E ma quello Condo con due N. Visto là che ti ho fatto uscire a Pisa. Sì, questi giorni troppo caldo per parlare. E non mi sento neanche tanto bene. Ma io me l'ho pensato a busta, è strano che Marco non sia entrato. Ho detto, io stamattina sono andato e meno male il piede non mi si è gonfiato. Mi si era sgonfiato stanotte, no? Deve essere proprio il caldo che me lo fa gonfiare. Ma ho messo le scarpe, no? Perché se no, se ce l'avevo gonfio non mi sarebbero entrati. Sono andato a fare delle commissioni, meno male non mi si è gonfiato. Ma oggi stava bene, stava anche piovendo poco a poco quando sono uscito. Sì, vabbè, le antenne non mi sono volate, no? Avete visto la bolotta stanotte alle 4:30? Ma l'antenna mia sul tetto ci sarà, boh. Sì, se stai trasmettendo, sì. Io qua avevo tutto aperto, no? Fino a notte tardi quando spengo. Arriva questa buriana, ma all'improvviso ha cominciato a volare roba qua, fogli, buste, di tutto. Allora prima che sbattessero porte e finestre ho chiuso tutto in fretta, ma una puliana devi sentire. Ah, non mi sono accorto di niente, la verità. Ma non ho detto che la chiamasse si rompeva, buh. Ma quello se sei sul mare, se sei esposto, è strano che non si sia rotta questa, detto, per come sente il vento questa volta ho detto ci siamo, e ci è controllato le stazionarie, sempre uno sta uno. E sai cos'è, questa è sottile, è fina e il vento ci passa attraverso, offre, sì, è più delicata, ma essendo sottile offre meno resistenza al vento, capito? Vabbè Antonio, come va? Riprendi tu, dai. Ma Antonello si è farato. È alta l'antenna mia, si vede dal ponte, cazzo, poche alta. Ah, sì, da Ponte Rosello, sì, sicuramente sì. E tu dovresti avere anche la zona di... sostendo di più a vista, no? Più aperta, com'è la situazione? Io arrivo bene a Sorso, per esempio, da Franco. Signorino, non c'è nessuno, boh. A Sorso comunque arrivo tranquillo, con 4 watt, perché non ho altro qua, e quindi... Io, pomponi a fare scompare. Qui è tutto. A te ti chiamiamo Tirighetta, perché salti da un posto all'altro, che... Da oggi ti metto Tirighetta. Ma se vuoi bere l'acqua, secondo te non va? A barattino, con microfono, vai in cucina, prendi la bottiglia e beve. A me mi sa che era bionda quella. No, tranquillo, già me la bevo, vado al, come si chiama, supermercato, me la prendo. E a me acqua di fonte mi tocca bere, ora mi ho mangiato un cremino. Solo se non me la fanno salire la glicemia, i cremini. Infatti mi Giuseppe diceva. Io mi sono mangiato invece un coso di sardine bello mezzo chilo là solo. Quindi figurati tu, ce la salendo scendendo. A me mi piacciono fatte al libriccino, mi. Cazzo, una volta l'ha fatto mia cognata. A me non mi piace il pesce veramente. L'unica volta che ho mangiato le sardine fatte così, ma erano i gusti buoni, Antonella. Sì, basta che lo fai col sugo. Sugo, voi ci metti rosmarino, sale, come ti posso dire? Basilico, eccetera, eccetera, escono buone e sono anche leggere. Invece fatte come si faceva una volta, come noi sardi, che le fai prima le cucini e dopodiché ce le metti in mezzo all'acqua, col sale, eccetera, eccetera, persemolo, aglio, con quelle cazzo ti rimangono fino a dopo 2 giorni cazzo a digerire. Ma non le ho mai mangiate così e non le cucino neanche io, perché se sento l'odore mi fa vomitare, l'odore delle sardine. Infatti io non ne mangio pesce per non sentire l'odore, a chi si intende rubiago guai, mi fa vomitare subito. Quando io vado a pescare il pesce lo porto a mia moglie, se lo cucina lì, mamma, io non ne voglio vedere. Va bene, visto, invece io sono andato lì, l'ho pescato in negozio, 8 euro al chilo. Ma tu sei andato con l'esca sicura però, se vai con i soldi io credo che rubi pesci vero, pesci. Non abbiamo avuto, mangiamelo io, un chilo di pesce, di sardine, con Simona, il discorso è quello. Comunque io al suo non le ho mai mangiate, le ho mangiate fatte come le ha fatte la compagna di mio fratello, cazzo, guarda, veramente buone. E infatti mio fratello ha detto, cazzo, con un guiso che non ti biasini. Io le faccio con il pomodoro di aprizi e sugo, sale, e poi ho messo basilico, rosmarino, resto, ma senza peperone naturalmente, ma sono uscite di uso, sono leggere e leggere. Invece quello che fa c'è il modello vecchio, che fai aglio per femoro, ci metti l'acqua, una volta che sono cucinate all'orto, ce le metti dentro, eccetera, eccetera, quello ti salgono, salgono lasciando sullo stomaco quando vuoi, come vuoi. In salamuia, da. Già ho capito, vabbè, io vi lascio che continuo a leggere qua, che sennò non ne gavo vedi. Leggi, leggi. Purtroppo bisogna farlo, va. Ci sentiamo alle prossime. D'accordo, d'accordo, non vedo che c'è patentino, ma sei tranquillo, bene, ma si lega. Sì. Ciao Natalino, dai, sentiamo. Sì, mugio mugio Marco, cazzo su alla vita, Dio buono. E così è, a giornate, boh. Mi sto dormendo pure male, quindi è tutta scomusolata la giornata. Sì, me lo posso immaginare, dai. Continuo nella mia lettura qua, se no non ne tolgo piedi. Ci sentiamo alle prossime, ciao a tutti, anche a quelli che ascoltano. E a ciao Natalia, alle prossime, là. Marco, esci da casa, cazzo, non puoi stare dentro casa. Esci, se no diventi peggio di me. Non ti serve più l'uccello, ma già lo sai. No, no, lì è chiuso bottega, lì, per il momento, chiuso per ferie. Se non riesci tutti a pigliare la depressione, te lo sto dicendo io, guarda, lascia perdere a me, che sono quasi uguale a te, me. Se non esco di casa, esco solito a fare la spesa, torno indietro, e poi devo stare qua, buttato a casa, a un certo punto, quindi mi sta pieno la depressione, e quella fa un bel male. Quindi esci, se devi uscire, fate 2 o 3 ore fuori con gli amici, con le amiche, quello che trovi, Marco. Se no peggiori, te lo sto dicendo io, guarda, io sono così adesso. Sono depresso perché non sto più uscendo di casa, devo stare qua, devo stare a controllare a Simona, la mattina lei esce, io non posso uscire da nulla, a te stare è depresso, figurati tu, cazzo, a un certo punto, perché non può andare a fare ciucucucca in strada come ho fatto l'altra volta, quindi non lo so. Fate la mossa, Marco, esci tutti i giorni, un paio di ore al giorno, in modo da sventiare, se no ti piglia male, mi sto sudorizzando. Sì, vabbè, oggi è una giornata un po' così, domani mi rifaccio, eccetera. Bene, bene. Scusate, ma ancora giovane, cioè, e tu mi stai dicendo che non la fai più? No, insomma, giornate, proprio ci sono giornate che, a parte che il caldo, anche per quella patologia che ho, mi taglia le gambe e le braccia, proprio non riesci manco a alzarti dal letto, il caldo, e non solo il caldo. Che patologia? Niente, è una cosa ormonale, quindi è tutto un po' scombussolato, anche se prendi le medicine, eccetera. Sì, sto soffrendo il caldo, più di prima. Prima me ne andavo anche al mare, eccetera, ma adesso è una cosa allucinante. Che palle quest'estate. Poi ci sono altre priorità familiari, e quindi bisogna pensare a quelle. Ah, vabbè. So. Antonello ci è passato già, mi pare, 1, 2, 3 volte, quindi già lo sa. E appunto, per quello fa 10 minuti, poi non me ne esco, ho staccato qui, buttato a casa. Questo poco ma sicuro non me ne fotte nulla, guarda. Adesso ho già deciso, il 15... Il prossimo mese mi cerco un motorino e me ne vado in giro, come facevo una volta. non mi interessa niente, almeno cambio tutto il, se divento depresso o qualcosa del genere, divento macco di vento, o non saranno. Ma tu non sei stato sfortunato, perché sei stato male prima la mamma, poi il padre o viceversa. Io e la mia compagna. Tu Gian Piero, poi se buono non so bene, insomma. Un po' sfortunato, va. Purtroppo è così, non ci possiamo fare niente, Marco. Però a un certo punto mi alzo la mattina, lavo in terra, faccio i piatti, cucino, eccetera, eccetera, e poi non esco la sera, cazzo, apri la borsa, no, non ce la faccio più io. Apri la borsa blu. Adesso mi pido il motorino, vedo, me ne esco, me vado in giro, me ne faccio un cazzo, posso andare anche a cosa, tanto per dire, al centro storico, a farmi in giro. Mi siedo lì, mi piglio l'aria, quello che è, poi entro a casa. Io a stare dentro a casa qui buttato non ce la faccio più. Mi sta dando la depressione a un certo punto. Vabbè, cambiamo argomento. Antonetti, ti ricordi quella cosa FM che tu volevi? L'hanno fatto con la stessa identica forma, identico, però col Bluetooth. Cioè li puoi dare anche le sorgenti sonore dal Bluetooth. Poi c'è una specie di dosimetro incorporato, ti dice già se dal display sei stazionario. Poi lo puoi collegare al computer e c'hai come una specie di programma, ti fa da centralina, come se avessi una regia, capito? Uno studio, capito? Lo comandi da lì. Il costo quant'è? E di più, aspetta, adesso non mi ricordo, se il modello normale era una 50 di euro, credo sia una 90 quello. L'aspetto è uguale. Poi ti scarichi il programma, vabbè, che il computer è, se te ne freghi, se uno non lo vuole il computer non emette, non sei obbligato. E poi c'aveva anche qualche piccola altra miglioria che adesso non mi ricordo. Ho capito. Adesso vediamo un pochettino, va. Secondo com'è me lo prendo. Il primo di questo mese. Se dove sono me lo vuol dire. E poi vediamo un pochettino di fare qualcosa. Tanto l'antenna ce l'ho, funziona bene, quella che c'ho. Vabbè, mi piglio una minicamp qui, così trasmetto. La uso per divertirmi, perché è stato fra poco, ci sarà lo cordeo a settembre, quindi siamo tutti a casa. Ci svegliamo, ci prendiamo il pisellino e ce lo facciamo a mano, come se facciamo una volta. Le camerate stanno chiedendo fra poco tutto, insomma, siamo già 2000 e qualcosa. Ma che se la fondiamo, sono preti mondiali, insomma. Poi ci siamo messi bene, per carità, guarda. Non anche da quello ci vuole anche la guerra, guarda, secondo com'è. Per carità, guarda. Conviene, guarda, a un certo punto comprarsi un terreno, fare un buco in terra, sotto la casa, un buco da 80-90 metri, in cemento al mazzo, vivi lì, ti pianti, non fai altro che piantare un po' di piante e vivi di cosa, e se la biglia in culo, come facevano in America. E l'aria? E l'aria già si filtra, non è quello il problema, non ti preoccupare. Secondo te l'aria arrivata, dove cazzo la prendono? Basta prendere il cazzo di... come fanno con la NASA, a un certo punto non ci vuole molto, no? Vabbè, ma un po' delicato quello. Poi per andare più verso terra a fare la fine di Tokyo, delle talpe, ma non so quanto sia bello, Antu. Vabbè, visto che sulla ISS, visto che non fanno i tocchi, non cattivo. E vabbè, mangiano, cagano, pisciano, si bevono la roba loro, si mangiano la roba loro, quindi a un certo punto mettono le piante, l'ossigeno ce l'hanno, quindi faremo come, a meno che non ci andiamo alla luna a vivere, a un certo punto, poi loro che si ammazzino. Che schifo! Ma avevo sentito questa cosa comunque, che potevi anche riciclare la pupù e riuscire a ottenere qualcosa di commestibile, no? Però va bene al primo passaggio, perché se poi se la rifai, la riconverti, secondo me non sa di roba da mangiare, ma sa di meglio. Mi sono stato là, mangiando merda, diciamo, e bevono cazzo d'acqua, così, quindi vuol dire si può stare tranquillamente, guarda, a me pronto va sotto terra, hanno trovato il, quasi, adesso non mi ricordo quant'è, se 100 metri sotto oppure un chilometro sotto terra, c'è la vita. Se non vai lì e te ne fatti le balle, capito? C'è il caldo, c'è l'acqua, c'è tutto, quindi te ne fatti le balle. Quando si ammazzeranno tra loro, a un certo punto, arrangetevi. Comunque sono dei contagi, io non so se sia vera prenderla per buona, ma è per spingere a smerciare la quarta dose, capito? Prima dice saranno gli anziani e le persone deboli, poi cominceranno, facciamolo anche agli over 50, poi facciamolo anche sotto i 50, insomma, punto a capo, poi la quinta dose, la sesta dose, la settima dose, e così via via in eterno, finché decimeranno un po' di popolazione, così, tutte queste morti improvvise, no? Questi malesseri improvvisi, dirigente, atleti, coso, ventenni, quindicenni, trentenni, tutta l'età. Ma vai, so, carrammeggia, so, e buco, già, cioè, stai facendo per guadagnare, magari è roba che cucimi, secondo me è roba che stanno facendo solo per guadagnare questi bastardi qua, delle case farmaceutiche, e buco. Quando passano per il Covid, magari non è nemmeno un cazzo, ma è roba bugia. Sarà in vitamina, non sa manco vaccino e sa roba, o chissà che malasso si è, cioè secondo me ci stanno prendendo per il culo poi. Vabbè, non sai come stanno le cose, comunque sto saltando appena amianto, avanti Marco, io guardo un secondo di farmacia a fare il cambio del medico e dopodiché sto arrivando subito, va. Sud Italia, Calabria. Qui la Calabria, io Antonio, vai in farmacia. Cosa fai? Dottor 1 e 1. Di Calabria. Attento Sud Italia, tanto buonasera, stazione 1, saliva per Antonio Antonio insieme a Falcone, poi c'è Borsellino e Lucia Porco. Qui Roger Antonio, ti ascolto, Vasco, c'è troppo carino in frequenza, ripeto, la metti a terme, la K5 la metti a terme, la Calabria ancora a te. K, comunque sei oscillante, 9995910 sei qua, K, salutoni, cooperatore Antonio, dalla città di Sassari. Attenzione Calabria, ascolta Antonio, una Falima, sì. Antonio ti ascolto, c'è casino però qua, o andiamo sul 27, canale 27, perché c'è troppo Bairam, via dalla Sicilia, quindi è un casino, hai capito Antonio? Ok, allora tutti canale 27 allora, non c'è problema. 27, 27. Comunque mai. Voglio dire, Lucia, non so che dirti. hai capito? Sono dimostrato che siamo in tre ore, ci vuoi mettere? È positivo, lo spagnolo è un altro maledetto. I cinque sono 29 cinque, quello delle cinque. Mi faccio prima caricare, prima e poi c'è lo fiero. Io quando arrivo, cioè domani vado a caricare, ma mollo. No, io ero al telefono, ho dovuto rispondere al telefono in fretta e ho detto vado a 10 come monitor e poi ho sentito che chiamavi Antonello, Antonello il lungo, ogni tanto ci perde. Non è tanto indagito la Gabriele, volevo zitto. Sono qua. Eccoci, ogni tanto mettere dalla sedia, KK. Sono qua, non cadono la sedia, non ti preoccupare. Aspetta che sto facendo una roba. Ah, ho passato il tutto la sedia. Vabbè, lasciamo qua, non c'è problema. KK. Sono qua, non ti preoccupare, non ti preoccupare. E vabbè, adesso vediamo questa influenza potenziata che danni farà. Comunque Claudio mio, se tu sabato notte facevi un giro, intanto ci sono passato con cosa, no? Torre Tonda a un carnaio, cioè Piazza Tola chiuso al traffico perché era successo un carnaio. E vabbè, contenti loro, l'importante è che loro facciano un aperitivo e tutte le sciabidure. Senti di uno che sta mandando la devali, se bastava, c'è un nome, vai. Ehi, vabbè Marco, è così, non c'è niente da fare. Tanto prima o poi torneremo come prima. Hanno aperto troppo in fretta, stanno dando troppa libertà. In altri Italia ci sono un sacco di contagi, ma anche qua in Sardegna è un casino. Speriamo bene, ma penso che comunque qualcosa torni come prima, sicuramente. Ok, vabbè. Hanno trovato il sistema. Il sistema, poi già la quarta dose la estenderanno e vedrete quanti abusi si faranno in futuro, per carità, guarda, poi si lamenta Speranza, il ministro Speranza, ma non mi ha dato le 1000 con le minacce di morte, ma minimo, ci vorrebbe un missile di Putin, ci vorrebbe lì sul Parlamento lì. Io vado a centrare il ministro fa il suo lavoro, ma non c'entra niente, ma tu sei vaccinato, no? Io no comment. Tu no comment, io no commentiamo. Non vi capisco io voi, cazzo. Cosa vi costa? Non è niente, lo fai, basta, finito. Anch'io ero un po' contrario, poi li ho fatti tutte e tre. Se devo fare la quarta, faccio anche la quarta. Non va bene. Non va bene, perché il problema sta nascendo proprio da quello. Dando troppa libertà a gente che non è vaccinata, si inserisce nei gruppi e è lì che parte il focolaio. Adesso stanno dando la colpa ai continentali, tu perché lei ha aperti gli aeroporti. No? Non ci vuole più Green Pass, non ci vuole più niente, nulla. Tutti, c'è la Sardegna invasa dai turisti. E tutti proprio dall'Alta Italia, capito? Proprio lì chi non è regato la prima volta al Covid e poi hanno dato colpa a noi. No, vabbè, io già ho preso le contromisure, come dire, leggi il messaggio, alternative, potremmo definirle alternative, biologiche, eccetera. Io ho capito, ti hanno castrato. No, castrato, ci manca solo quello, mi trasforma in un cappone. No, non c'è alternative, e poi fai tu e fatti castrare, e poi sei arrivato, ti ha pagato, adesso mi guardo il messaggio. Antonio, ma lo di nuovo cucinando la mano di piatti. E poi il Green Pass è facile da riprodurre, e c'è Photoshop che è un bijou, puoi fare cose incredibili. Non so, tutto si può fare, non ha quei fammi soldi falsi. Ui ui, meno male ci scherziamo sopra. Comunque vabbè, adesso la stanno cominciando davvero a allargarsi troppo, e stanno già invocando crisi idriche, crisi energetiche, boh, non lo so, non mi sembra da te l'ho detto, però come dico sempre, roba un po' pilotata, cioè c'è un fondo di realtà, però poi l'aumentano di misura per aumentare prezzi tipo benzina, prezzi dell'olio e tante altre cose. Così i ricchi diventano sempre più ricchi, quelli ricchi sfondati, soprattutto sfondati, e poveri sempre più poveri, capito? Infatti è il problema. Il problema è lì, gente a fare. Non so, Pulipina dice quello. Un secondo, intanto aspettiamo se entra Antonello. Turbo la mattina. Ogni tanto dice sul canale 9, c'è un siciliano che mi sta splatterando di un canale, infatti lo bronto quanto è pumpendi. Ah, quello sul canale 9, sì sì, sto vedendo segnali anche poco fa, intanto questo uno da, cos'era, La Spezia o Lamezia, adesso mi pare Lamezia, forse Lamezia Terme, e arrivava bombetta a tutti, c'era Antonio, c'era Pompone, gli arrivava oltre il 9, a loro, a me no, a me è a filo del 9. Mi sta sbattendo un canale con Galassi, mi è Galassi e Tostomi, fatti un bronto, 9 più 10 sta arrivando a questo smitter che è abbastanza sordo. Stanotte risveglio, no? Sul tardi. Io mi sono sentito quella buriana delle 4, 4 e mezza. Io avevo tutto aperto qua, perché tanto non dormo. Per far passare il fresco all'aria viene questa imbarriata di buriana. Ha cominciato a volare tutto, quella al tavolino, foglie e cose. Ho dovuto chiudere d'urgenza tutto. Ho detto, ma questa è la volta che riscende l'antenna. E invece non è scesa. Ma trombo l'aria era, già ci voleva poco, capito? Mi ha distrutto la veranda. Ma altro che ci ho sentito, c'erano tutti i salottini, i vimini, i cuscini di tolgo la sera perché magari risvoltano gli uccelli, le lucertole, capito? Stamattina ho trovato tutto vicino al cancello, tutto a pezzi, mi chiesa a pezzi, una barca di sotti, buttati via. In macchina stamattina, ho passato il sedile, ho fatto tipo cassone, ho buttato tutto nella, al corso, ho portato tutto a pezzi, due poltroncine, un tavolino, tutto fatto a pezzi, ho pagato un sacco di soldi. Minchia, ma tu immagina, se era forte qua, che io sono praticamente, allora, dal lato interno risulta un primo piano come altezza, no? Lato interno del palazzo, se era forte qua, figurati quant'era forte dove sei tu, che è un ben alto, è aperto. E fa danno, mi ricordo che il vento precedente, che c'era stato tempo fa, addirittura dove c'è il garage, c'è uno che ha delle specie di, non dico verandine, c'ha delle cose curve, antisole di plastica con dei telaietti in alluminio, no? Tanto per parare un po' dal sole. Beh, il vento gli era disintegrato ed era una cosa talmente interna, talmente coperta, niente, il vento è entrato anche lì, ha fatto mulinello, gli era disintegrati. Non questo è, forse è successo tempo fa. Non so, sì, sembrava una tromba d'aria perché ha durato un poco, poi c'erano fulmini, tuoni, un temporale di passaggio, qualcosa di passaggio. E poi stamattina io quando mi sono alzato verso le 8:30, io non ho dormito niente, di solito mi alzo molto prima, ho aperto la tutto asciutto, quindi ha piovuto poco, era di passaggio, capito, col vento che c'era ha asciugato subito, ma ha fatto un disastro. Infatti adesso ho messo gli altri, ne avevo altri di salottini eccetera, però la sera li tolgo perché sarà un lavoro, ma c'è un rischio che succeda di nuovo. Qua il vento, cazzo, qua quando entra il libeccio davvero è da paura. Non è maestrale che tenga, maestrale non mi fa niente. Ma quando entra di bici o l'alghero, io sono apertissimo per l'alghero. Come carbonati la stessa cosa, io tenevo più di bici che il maestrale, è un casino. Libeccio cos'è? Sud? Sud qualcosa? Sud e sud-ovest. Sud-ovest, quindi il maestrale è nord-ovest, mi pare. Libeccio sud-ovest, ho capito. Sì, poi le macchine sono, vabbè, già da prima erano sporche per quella pioggerella, cioè fa due microvoci e ti caga la macchina, che non viene bene a dirlo. E poi col caldo non ne vuole stare sempre, lava e poi ti si sporca, poi rilavi e ti si risporca. Vabbè, poi la mia è un caso particolare. Io ben fatti. Beh, ti lascio, se arriva Antonello che vado a fare due cosette, ma rientro subito, non è che c'ho molto da fare. Già sono qua in ascolto, tutto acceso. Sì, almeno ascoltare qualcuno, perché a parlare mi accaldo. Io, ciao Claudio, nel caso dopo. Antonello, ci sei ancora? Entro subito. Io, vediamo se c'è Antonello. Antonio, c'è qualche sopravvissuto a Sassari, in mandaci me. Presente. Vabbè, già, è volata l'antenna. Cazzo. Stanotte non so se hai sentito l'imbarriata che di vento che ha fatto. Ha voglia. Cazzo, hanno cominciato a sbattere le finestre qua, cazzo, gente. Cazzo, ma sono stato di soprassalto, cazzo, si era dotto ganto. Cazzo, mi sono spaventato di brutto. Sì, già l'ho sentito. Tuoni, lampi, cazzo, raffiche di vento, boh, usciti da nuda, cazzo, tutta la lì, cazzo, sciumendi, cazzo, come una lumaca. E poi, cazzo, in piena notte, cazzo, ti passa, cazzo, passa la tromba d'aria, boh. Sì, boh, è proprio improvvisa, è stata una cosa improvvisa, immediata. Io per fortuna lo sveglio, perché è causa insonnia. Ma immagina se mi fosse addormentato con finestre aperte, anche l'autostrada, no? Magari sbattevano vetri, sfasciava anche vetri, insomma, ho dovuto chiudere tutto in fretta. Stava volando tutto qua, sembrava tipo la stanza di quella di Poltergeist. Roba che volava. Beh, a me mi ha svegliato. Vabbè. Aperte, però le tapparelle abbassate, hanno iniziato a fare casino le tapparelle e poi ho sbattuto una finestra e mi sono alzato per forza, e allora ho iniziato a vedere lampi, tic e trac e ballacche, ho preso, ci è serrato tutto, ho staccato il cavo dell'antenna e sono rientrato a dormire. Gianni, c'è l'audio che va e viene, fa una proprio come dire, c'è qualcosa che tocca bene e tocca meno bene. Madonna, telefono un attimino. Ho capito, magari c'è il pittiti sporco, boh. Rieccomi, cosa lampo? Guarda se lo fa adesso, aspetta che muovo un po'. Muovo il tasto del pittiti, forse è un po' sporco, boh. Adesso va, sì, ogni tanto... te ne accorgi meno, adesso l'ha fatto più, come dire, un attimo fa l'ha fatto più, proprio si è abbassato un po' di più, poi di nuovo tac, ricompare l'audio normale, così una passata, un bagno di CRC, un secchio di CRC si mette proprio a bagno, tanto poi evapora subito. Va un fiago quel CRC, quello Dreigot, quello che rimane secco, no? Che evapora all'istante, ma un odore terrificante. Quando lo spruzzo bisogna arrigerire l'ambiente. Immagino, questo M95 c'ha il tastino quello giallo del PTT che gli manca un pirulino, e gli ho messo una fittina di quelle piccole dall'altra parte, perché sennò quando lo schiacci è trastorto, dai. Questo è un omaggio di Massimiliano Bulldozzo. Eia. Dunque Claudio si è sentato un attimo, c'era Pomponi, ogni tanto Bombolino anche entrava, ogni tanto qualche imbardata di propagazione forte. dalla Sud-Italia. Mia zia è salita su un terrazzo perché c'aveva le tende da fissare. Sul terrazzo suo, dice, ha visto questo fulmine globulare sopra, proprio sulla verticale, da, proprio da, non scaricava te, andava da un punto all'altro del cielo, dice, impressionante. Detto, ma io gli ho detto, ma col cacchio che ci sei salito sul terrazzo. Poi, no, ho guardato l'antenna poco fa, questo sta tirando un po' di brezza, ho visto che insomma si muove, però è tutto nella norma, dai. Sono uscito poco fa a pigliare due cose, almeno c'è un po' di fresco. Cazzo, la mattina so che scende di capo, preferisco rimanere a casa. Pacari, dai, va, mi sta facendo, sta provando il mio sistema nervoso questa cosa qua, cazzo, proprio non rimborso più. Già c'ho i cazzi miei, eppure devo combattere pure un su cazzo di gas allucinante. Oh, yeah, va, i sentimenti li sto perdendo. Vabbè, Gianni Rubrofetta. Ciao Antonio. Ciao, cazzo, un bel forte qua. Antonio, sempre così siamo, dai. Marco, ci sei? Sì, sì, sono qua, stavo cercando la bottiglia dell'acqua, me l'ho lasciata in frigo. Vado a reperirla. Sto bevendo tanta acqua. Cioè, è una cosa allucinante. E infatti faccio la spola sempre al comodo, capito? Bevi e scarichi, bevi e scarichi. Solo acqua però, niente alcolici, con questo caldo assolutamente. Neanche birra al limone, il che è tutto dire. Guarda, io non so come niente nulla proprio. Non ho ancora toccato il cibo la stamana, cazzo. Questo adesso mi faccio un paio di pomodori di salata e si rabbiglia e se la prende in quel posto, dai, avanti Antò. Ehi, capo, ma l'antenna è cambiato, per quello mi arrivi un bel forte, già prima mi arrivava un bel forte, oggi è ancora più forte i nocchi. Antò, non è la mia, è in prova, intanto la devo smontare, non è roba mia, me l'hanno prestata per fare un test. Perché, che differenza c'è? C'è quasi 9.30 qua. E prima quant'era, non ti la metti? 9.20, 9.20 qualcosa. Ma sicuro? Sì. Sicurissimo. Oh, cosa vuoi ti dica? Mi è stata prestata per provarla, dai, per vedere come andava. Adesso nei prossimi giorni la tiro giù e la restituisco al proprietario. Gianni? Che succede? Oh, sei io. Magari Gianni l'hanno chiamato lì. Oh, che bella l'acqua fresca. Non fredda, è fresca solo. Mi sa che c'è pure un gelato. Natalino, ci sei all'ascolto? Comunque l'antenna così la sto cercando. Io sono qua comunque. Quale antenna tu? Tipo una Venom, una roba del genere. Ehi, quella che ha Gianni è mezz'onda, la stiamo rodando. Adesso abbiamo fatto il battesimo del vento anche, buono, è sopravvissuta. Papa, comunque qua arriva un bel forte, io sono in via Milano, mi arriva sparato. Ma come prima o adesso non ti ricordi il segnale di prima, no? Col quarto d'onda? Sì, no, più forte di prima, cosa come prima. È buono, dai, un secondo riscontro. Mi pare che anche Roberto aveva notato un piccolo incremento. O chi era? Roberto mi pare. Vai già. Ma le prove non si vadono così, ci fa una lunga distanza. Io sono più lontano, me ne accorgo. È inutile che magari lo fai col vicino che non sa bisogno di nulla. Io me ne accorgo più degli altri perché sono tutti i palazzi di fronte e me ne accorgo di più. Vediamo se Gianni aveva sentito Eugenio di Polo Torre, l'avevi più sentito? No, negativo Marco. Peccato, per esempio da Franco di Sorso, tu li avevi sentiti Franco di Sorso, oppure l'altro di Polo Torre, come si chiama? Siamo dal Faro, zona Faro, per vedere se il segnale aveva migliorato anche di poco, boh, vabbè. Non ci sono molti CB, una volta c'erano di più a Polo Torres, ce n'era di più Alghero, proprio come CB, poi magari molti sono diventati radioamatori, eccetera, eccetera. No, Claudio, di Porto Torres già ci siamo sentiti, dai. Otto oscillante, dai. Questo è quello che mi ha detto lui. Poi non mi ricordo, insomma, i riscontri precedenti. E ciccia. Ma perché non ti piace questa antenna? È una prova, Antonio, non è roba mia. E quindi l'abbiamo messa giusta per provare. Dopo smonto tutto e si pongo la mia donna. Però per dire, a saperlo, che la mandavano con i radiali, avrei preso direttamente la 5 ottavi, cioè, tanto visto che sono dei mozziconi, non danno alcun fastidio, però gli avevo scritto espressamente mezz'onda senza radiali, come d'annuncio, no? E invece con radiali, a pigliarla in culo. Cioè, molti negozianti ti mandano quello che c'hanno, però sarebbe stata la loro correttezza comunicare e dire, guardi, c'è rimasta la versione con radiali mezz'onda, che non so cosa ci stiamo a fare sulla mezz'onda, per correttezza. Invece vedo che una volta che paghi mandano quello che c'hanno e ti rudeni. Ma tu di sicuro mi stai a mezz'onda? Sì, sì, quella sì, è lunga 5,20 metri, 5,30 dai, 5,20 misurati, mi essere pignoli, non arriva a 5,30, invece la 5 ottavi è lunga 5,80, e tu mi dici, ma è corta come 5 ottavi, dovrebbe essere 7 metri, c'ha solita storia, meno stile e più bobina, capito? Comunque va bene. Il discorso è un po' è difficile, cioè qualsiasi pezzo di ferro risonante che metti sul tetto, se sei in una zona buona va bene, è troppo semplice il discorso così, non... cioè quella c'ha basse stazionarie su un calascio di canale, vuol dire che c'ha un fattore più basso, invece le antenne che rendono di più tengono meno canali, ma rendono di più su quei pochi canali, magari te ne tengono solo 80 con le stazionarie basse, però rendono molto di più, spingono di più, capito? Ma di che era tu gli hai l'antenna? Sì, sì, sì, l'ho voluta prendere per metterla in campagna, usi futuri, salvo imprevisti adesso, vediamo, oppure di scorta, di così. Io, da quando ti ricordi che tu c'era un periodo che volevi prendere la Venom, me l'ha messa in testa, all'epoca pensa che costava 39 euro solo, mi pare, 38-39 euro. Adesso è aumentata, adesso è arrivata a 44, più la spedizione naturalmente. Che poi vabbè, uno non vuole i radiali, lì li toglie, però Gianni sa cosa intendo, no? Che c'è uno spazio vuoto dove si infila i radiali, meccanicamente non è robusta, sì. Invece quella senza i radiali c'ha proprio la plastica piena, c'ha il foro per la vite, però la plastica è piena lì. Vai Gianni. Leia, ancora lo sta facendo quel difetto che sparisce l'audio per qualche secondo? No, no Gianni, adesso no. Ok, dai, vado a recuperare la bottiglia d'acqua fresca, dai. E io come ti arrivo riscontro il segnale da te? Aspettiamo che ritorni. Pomponio, sei rientrato? Pomponio va, viene, sempre tra una bionda e l'altra, eh? Sì, metti 5-6 metri di palo a voglia, che dopo te lo trovi di là, che ci prende. Hai fatto bene di batte, sai cosa? Allora, loro dicono 1000 watt. 1000 watt. Non è vero, non è vero. Se tu guardi la bobina, è una cosa ridicola, è un filettino avvolto su una specie di tubicino di cartone, tipo l'anima del nastro isolante, mi è presente l'anima del nastro isolante, il tubicino di cartone corto, eh? Ma perché la foto a te non te l'ho mandata? L'ho mandata a tutti, forse a te no, adesso te la mando. C'era anche un segnale sotto, chi vuole entrare? Rieccomi. Ehi, ti stava facendo un quesito, coso, Antonio, già, Antonio vai. Quanto ti arrivo dalle tue parti? 9.15, dai, non voglio essere così esagerato, già lo sai, lo strumentino non è, quindi tra il 9 e il piede del 30, praticate 6 in mezzo. Hai visto che prima però ti arrivavo così, molto di meno. Quanto? Ma poi che c'ho bisogno del gabbo mi fuma, e quindi non, ad essere sincero non me lo ricordo. Appena scarichette già di nuovo il mic. Il microfono, vabbè, andiamo da vedere. Forse il PTT, boh, la batteria mi sembra buona. Sì, sì, perché è una cosa che proprio tocca non tocca, tocca non tocca. PTT lo sta facendo anche a me con quello Intec 5005, ma il PTT da solo lo vendono. C'è proprio quel contattino minuscolo, dove bisogna comprare tutto il mic. Ah boh. Oh, yeah. Sto tirando appena appena d'arietta, dai. Mamma mia come sto. Oh, yeah. Per carità. Già c'è questo rumore di un cazzo proprio. Poi lo spramo di ieri notte. Oh, yeah. Passimato dici. Cos'è tu? Aggiungi passimato dici. Ieri di coppa ne ho verso le 4, le 5, le 4, le 5, boh, ha cominciato gas a sbattere le finestre forte, mi sono svegliato di soprassalto, dai. Sì, già lo so. Una tromba d'aria. Manca Zuruvissa, oh yeah. Per carità. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Oi, oi, oi, oi, oi. Antonello, cazzo, l'ho sentito poco fa prima di uscire, cazzo, pare che faccia la patata in bocca, incomprensibile, cazzo, boh, quando ci aveva il Saturneco, cazzo, era irriconoscibile, cazzo, bellissima modulazione, cazzo, un bel suono, cazzo, si sentiva tutto perfettamente. Allora, cazzo, ci vuole l'interprete per capirlo, cazzo. Faccio veramente difficoltà a capire quello che dice. Ma non è colpa della radio, però, no? Sì, sì, gli ho detto anch'io che non era chiaro come è barattolato e cupo. Cioè, Antonello, se volesse, uscirebbe bene ogni giorno, ma lui non vuole uscire bene. Ogni addio è saturo, o è cupo, o c'ha la turbina di fondo. Cazzo, pare che faccia la bocca piena di mollica. Oh, veramente, cazzo, è proprio fastidioso, boh. Davvero, ci sono frangenti, i pochi, dove sono riuscito ad ascoltarlo bene, boh. Vabbè. Ma quella non è colpa della radio, no? Chissà come ti tenere un microfono, boh. O c'è... Boh, guarda, non lo so. Ma come ti che c'è il buio lì? Ghiaccio, è tutta una storia. Oi, oi, oi. Vediamo se c'è il fauno all'ascolto, dai. Stava studiando. Stava studiando Natalino, e va bene. Gata Edo, oi. Ognagana, cro cro. Sei molto impegnato questo periodo, no? Ehi, qua, lasciamo perdere anche. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Marco, ci sei? Io mi sono combattuto pure io in certe situazioni, lo posso comprendere. Già, mi ho mezzo capito, me. Già Marco già lo sa di cosa sto parlando, dai. Purtroppo i genitori hanno una data di scadenza, purtroppo. Non ci sono i ricambi ormai, sono modelli antiquati. Prendiamola a ridere, dai. Tanto lì che ti ho mandato la bobina, quell'obbrobrio di bobina della Venom. Sì, praticamente adesso potrebbe essere, sai cosa però, non cartone, potrebbe essere quel materiale refrattario che mettono anche nelle stufette alogene elettrica, che sembra cartone, ha il colore marroncino, ma è un materiale refrattario che resiste al calore. Comunque 1000 watt non li può dare, quel filettino sottile non li può dare 1000 watt. Io mi fiderei a dargliene 100, 200 in banda laterale, ma non di più. Adesso a Bucaria. quel convento, vedi, cioè sotto la campana che c'è la base di plastica, no? Dove c'è il PL femmina, c'è questo filo avvolto su questo coso di, vabbè, pseudocartone, cos'è, potrebbe essere fenolico, non lo so cosa sia, e poi ricoperto da quel nastro rosso, però se tu ingrandisci molto la foto ti accorgi di quanto è sottile quel filettino, quindi 1000 watt non li potrà mai tenere.